si sposa, lo intitoliamo in questo modo, Charles si sposa, ecco. E leggiamo appunto, naturalmente voi sapete che insomma, la sistemazione sociale di un figlio era anche in qualche misura un fatto fondamentale in una famiglia, specialmente poi un figlio, come dire, sbilenco dal punto di vista delle sue capacità intellettuali, aveva ottenuto, come mi pare ieri ho accennato, per il rotto della cuffia, studiando a memoria, aveva ottenuto il suo diploma, era diventato ufficiale sanitario, si era trovato anche, quindi c'era una possibilità di trovare posti di lavoro diversa da oggi, aveva trovato la cittadina in cui operare, che era tosta, ma gli mancava la moglie. Ragazzi, silenzio. Dunque, leggiamo a partire dal capoverso. Questo l'abbiamo letto già, questo capitoletto? No, allora lo leggiamo adesso. Mais ce n'était pas tout que d'avoir élevé son fils. Ci siamo? Come no, alla fine del capitolo 67. Ecco, il primo che lo trova, questa è la vecchia abitudine, abbia la gentilezza di dirlo. Ma in genere le edizioni sono comunque, insomma, ci c'è niente. L'avete trovato voi? Alla fine di questo capitolo. L'ultimo, ecco, la pagina finale del capitolo. Mais ce n'était pas tout que devoir élever son fils. Ci siamo? Avete aperto la porta lì? Sì. Là? Anche. O no? Aprite, non si apre quella lì? Fa un caldo spaventoso. Ma non era tutto avere allevato, grazie, aver allevato il proprio figlio, di avergli insegnato la medicina e scoperto toast per esercitarla. Gli occorreva una moglie. E lei gliene trovò una, la vedova di un usciere di Dieppe, che aveva 45 anni e 1200 franchi di reddita. Sebbene fosse brutta, secca come uno stecchetto e bitorzoluta come una primavera, certo, Madame Dubuc non mancava di partiti da scegliere. Per giungere ai suoi fini, mamma Bovary fu obbligata a farli fuori tutti, a sbaragliarli tutti, e riuscì a stornare molto abilmente gli intrighi di un salumaio che era sostenuto dai preti. Charles aveva intravisto nel matrimonio, attraverso il matrimonio, la possibilità di una condizione migliore, immaginando che sarebbe stato più libero e avrebbe potuto disporre della sua persona e del suo danaro. Ma sua moglie fu il suo padrone. Doveva, davanti alla gente, dir questo e non dir quell'altro, far di magro tutti i venerdì, vestirsi come lei voleva, perseguitare per suo ordine i clienti che non pagava. Lei dissigillava le sue lettere, spiava i suoi passi e lo ascoltava attraverso la parete quando faceva delle visite nel suo gabinetto, se c'erano delle donne. Le occorreva del cioccolato tutte le mattine e riguardi a non finirla più, si lamentava senza tregua dei suoi nervi, del suo petto, dei suoi umori. Il rumore dei passi le faceva male, ma se uno se ne andava via, la solitudine le diventava insopportabile, e se si tornava vicino a lei era per vederla morire, senza dubbio. La sera, quando Charles rientrava a casa, lei tirava fuori da sotto le lenzuola le lunghe braccia magre, gliele passava intorno al collo e, avendolo fatto sedere al bordo del letto, si metteva a parlargli dei suoi dolori. Lui la dimenticava, ne amava un'altra, gli avevano detto che sarebbe stata fin felice, ed ella finiva col domandargli qualche sciroppo per la salute e un po' più d'amore. Eh, entrando nel clima del romanzo, come dire, a gran carriera e nella perfezione assoluta, che naturalmente il romanzo non riesce a reggere, perché la perfezione non è di questo mondo, nemmeno delle somme opere d'arte, ma qui direi tutto è divinamente, se posso usare questo avverbio senza alcuna enfasi, divinamente perfetto. Ecco la descrizione del matrimonio di Charles. Matrimonio combinato. Sapete naturalmente che i matrimoni venivano combinati non solo nell'Ottocento, insomma, no? Anche agli inizi del Novecento, in certe zone dell'Italia, Sud Italia, ancora insomma in tempi relativamente recenti. E naturalmente una cosa molto importante per la moglie è che avesse danaro, avesse una dote, no? Voi sapete che le ragazze di buona famiglia una volta si preoccupavano le mamme o le nonne di fare la dote. Sapete benissimo che cos'è una dote. Lenzuola, federe, camicie da notte, no, c'era tutta una specie di festa che poi accompagnava tristemente la giovane al matrimonio, perché ove mai la giovane non si sposasse, tutta questa dote rimaneva inutilizzata. Aveva un allievo, quindi potete immaginare in tempi non molto remoti, insomma. Che si era opposta fieramente perché diceva che portava sfiga che la nonna le facesse una dote. La nonna ha continuato, ha perseverato a fare la dote, alla fine venne fuori questa dote meravigliosa, lei che voleva una sua sistemazione, non tanto per il matrimonio, ma insomma rimase in casa con la mamma e la nonna e la dote inutilizzata. Insomma, per cui adesso non credo che le mamme si occupino più di dare la dote alle figlie, insomma credo che ci siano solo in certe. Lei, sua mamma fa la dote? Ah, ce l'ha già la dote? Oh, beh, un bel colpo questo, già averla di fattura, eh? Chi era costei? Era una vedova di un usciere, ma attenzione, non gli uscieri come quegli imbecilli che, con cui abbiamo a che fare noi, che è quello che mi ha dato la chiave adesso, insomma. L'usciere voleva dire un ufficiale, un ufficiale amministrativo, un impiegato sostanzialmente di ministeriale, un impiegato ministeriale. Era vedova di un usciere di Dieppe che aveva 45 anni. Gli anni sono sempre molto importanti. Direi in tutto il romanzo dell'Ottocento, ma certamente in Flaubert. Voi sapete che la durata media della vita nel 1911, cioè non lo sapete ma ve lo dico io, 1911, quindi tenendo conto della natalità che era molto bassa perché dei bambini che nascevano molti morivano, quindi tenendo conto di questo, comunque la natalità media in Italia era di 44 anni. La vita media in Italia era di 44 anni. Potete immaginare quindi come andassero le cose prima. Quando noi ci stupiamo, non so, che Pascal fosse morto a 37 anni, che Leopardi ne aveva 39, che Proust ha scritto la Recherche ed è morto a 51 anni, diciamo ammazza, ma come sono giovani, no? Però in realtà la vita durava assai meno, questo, Quindi, ragione per cui, una donna di 45 anni, in questo torno dell'Ottocento, siamo intorno agli anni più o meno, anni 30 siamo, una donna di 45 anni era già una donna anziana. Oggi a 45 anni una donna è nel meglio della sua bellezza, comunque. E il meglio di una donna, oggi una donna raggiunge il meglio, se è bella tra i 45 e i 50. Dopo poi cominciano delle cose, insomma. Una trentenne, obiettivamente, una trentenne conta poco, no? Una ventenne ciuccio in bocca. Ma 45 non erano tanti. E perché la sposano lo fanno sposare con una vedova di 45 anni? Perché pensano che sia una che non gli fa fare cose strane, stravaganti, insomma, più che una moglie madre. Ma naturalmente nel matrimonio, o comunque nel rapporto di coppia, occorre l'attrazione sessuale, quella è la prima cosa, insomma, non c'è dubbio. Da che mondo è mondo? non ci si sposa senza quella, non è la condizione sufficiente, ma è necessaria, senza attrazione sessuale. E vediamo com'era questa donna. Questa donna, che peraltro aveva 1200 franchi di rendita, ricordate due cose, una cosa prima di tutto, che i soldi sono estremamente importanti nel mondo flaubertiano. Questa è la prima cosa da ricordare. Com'era? Era brutta. Brutta e secca come uno stecchetto. Ecco, ora, nell'Ottocento c'era naturalmente la moda delle taglie piccole, da quelle che si usano per Miss Italia, no? 38, 40, eccetera. Però una cosa, una taglia piccola, una cosa essere uno stecchetto, evidentemente, no? Cioè, se si enuncia in un qualsiasi tempo che la donna con cui ti accoppi è uno stecchetto, viene all'uomo un certo fastidio, un certo senso, perfino vorrei dire, di ribrezzo. Costei, sebbene fosse brutta e secca come uno stecchetto, non di più, e bitorzoluta con tanti furuncoli, come una primavera con tante gemme, quindi insomma la descrizione non potrebbe essere più perfetta nell'orrendezza che nei fuori, secca, bitorzoluta, che cosa aveva però? Aveva dei partiti da scegliere, già, perché i matrimoni venivano scelti non sulla base solo della bellezza, ma anche sulla base di opportunità. E quindi c'erano dei concorrenti, per così dire, di Charles, uno dei quali era un salumaio. E splendida la determinazione del salumaio, perché ci fa capire subito il livello di concorrenza che aveva Charles. Senza dir nulla di male dei salumai, ma certamente non era un principe che aspirava a Madame de Bourbon, era un salumaio. E guardate, questo è un secondo punto accanto ai soldi che vi ho detto che sono importanti per Flaubert, guardate da chi era sponsorizzato il salumaio: dai preti. Ecco, questo è un punto sostanziale in Flaubert, come quello dei soldi. Flaubert ce l'ha coi preti, è un mangiapreti spaventoso. Tutto ciò che ha a che fare con la Chiesa Cattolica e con i preti lo detesta, tanto per chiarirci le idee. È ateo, ma è soprattutto un mangiapreti. È soprattutto un mangiapreti. Quindi che ci fossero di mezzo i preti. Infatti, quando abbiamo letto dell'educazione di Charles, il piccolo Charles, del curato che lo educa, e abbiamo descritto questo grasso curato, adesso vi dico un errore che sto facendo molto interessante, che vi deve servire. Sto ripetendo la frase che ho appena detto: questo grasso curato che si addormenta, vi ricordate? Si addormenta, ci sono le falene, no? Moscerini, questo ci fa pensare che sia estate, cioè questo genera il pensiero dell'estate e lui russa. Quindi nullità del prete, il prete non è capace a nulla, o è capace a nulla o è capace di cose cattive, come vedremo. Però qual è l'errore che ho fatto? Credo, non lo so, potete vederlo voi. Ho detto grasso prete, così che ho detto, ecco. Bene, mentre lo dicevo sono convinto di essere sbagliato, questo prete non è grasso, però non sono riuscito, e qui è l'abilità dell'artista, a immaginarmelo diversamente da un grasso prete pieno di minestroni, di fagioli, no? Tritoni di campagna, grasso che si addormenta. Non lo immaginate, dite la verità, come un pretino magro. Anche i magri russano, ma noi lo immaginiamo come un grosso pretone, eh? Non credo che ci sia. Ho sbagliato? Sì e no. Nel senso che la letteratura è fatta perché noi ci lavoriamo sopra e immaginiamo anche delle cose sbagliate, ma che ne esprimono lo spirito profondo. Vi faccio un altro esempio perché il discorso è estremamente importante. Avevo un importantissimo parente, nobile naturalmente, essendo nobile della mia famiglia, psicanalista. Quando leggevo Proust Proust, cominciai a lavorare su Proust ed ero un ragazzo e era molto snob, molto colta, molto snob, simpatica anche, ma insomma una snob spaventosa. Un giorno mi disse: ah, che bella quella scena della Recherche. E sono passati da allora, potete immaginare quante decine di anni, in cui c'è il gallo che canta a un certo momento, è come un risveglio della vita. Io ero uno studente molto studioso ed ero un lettore da quando avevo 5 anni e insomma leggevo bene. La parente mi disse sto fatto del gallo, io non lo sai contraddire. Poi andai a cercare sto gallo. L'ho cercato a lungo, il gallo non c'era. Però siccome il gallo significa, nella visione della parente, dell'anziana parente, dell'anziana e colta parente, significava il risveglio della vita, voleva dire che lei in Proust aveva percepito che c'era un risveglio a una vita nuova a un certo punto e allora ci aveva messo il gallo. Naturalmente se uno viene da me, una studentessa, a fare l'esame e mi dice che non c'è una cosa, c'è una cosa che non c'è, io mi comporto in modo imprevedibile, la invito gentilmente a sentire, io semplicemente, no, era solo così, esempi grazia, era solo per un esempio. Però capite che quello che si richiede nell'arte è proprio questo entrarci dentro. E se noi dimentichiamo poi certi dettagli, la cosa importante è che ne ricostruiamo l'atmosfera. Capite bene quello che, no? Chiaro il punto? Sarebbe molto bello soffermarsi su questo argomento, però siamo costretti ad andare avanti. Quindi, il prete sosteneva, era uno sponsor, dicevamo, un supporter del concorrente, ma il matrimonio avviene e Charles, come tutti i ragazzi, Charles ha sui 25 anni, supponiamo, quindi ci sarà dallo scatto di età tra lui e la moglie, immagina di essere libero, cioè perché una volta ci si sposava, qual era la ragione fondamentale? Per levarsi dalle scatole i genitori, la famiglia, avere una vita propria. La condizione normale una volta era quella che la donna passava dalla tutela del padre alla tutela del marito, sostanzialmente questo. Nulla interposita mora, ecco, senza alcun intervallo. Così pensa lui, pensa però dei soldi miei, adesso i soldi devo chiedere a mia madre, avrò una vita mia, ma il fatto è che il matrimonio non è un fatto, una situazione astratta, vive a contatto con la persona che sposi. E com'era questa? Questa era una despota. Lui, che era uomo mite, era un giovane mite, timido, di sentimenti religiosi molto, molto, come dire, conformistici, per così dire, ma forse non aveva per nulla sentimenti, era un uomo quasi al grado zero, per così dire. E poi noi vedremo che alla fine del romanzo non è più un uomo a grado zero, è costretto a mangiare di magro. Sapete che la Chiesa Cattolica ordinava di mangiare non carne il venerdì. Io da bambino ero molto contento nell'educazione cattolica che avevo avuto, perché la carne non mi piaceva, il pesce mi piaceva, quindi vedevo il venerdì come era una delle tante ipocrisie della Chiesa Cattolica. Se uno mangia, no, il venerdì dovrebbe fare digiuno, o dovrebbe mangiare una stupenda, aragosta il venerdì, anziché una fettina di carne. E che dice, che costa di più, una fettina di carne puzzolente o una meravigliosa aragosta? Tant'è. Doveva perseguitare quelli che non pagavano, già, perché quando uno esercita una libera professione, voi sapete che il problema non è come per me che sono un impiegato dello Stato, quindi io lo stipendio ce l'ho toccando ferro, legno e quali altre cose che voi ben sapete, ce l'ho alla fine del mese, hai capito? Ce l'ho il giorno 25, ce l'ho esattamente. Ma un libero professionista è un avvocato, eccetera, invece può guadagnare 8 volte quello che guadagno io, no? Ma il problema è che se non trova, se non lo pagano, che succede? Allora il dottorino, che è lui, se non lo pagano, la moglie gli dice: ti hanno pagato, denunciali, fai una causa. E quindi questo povero Cristino, che è lui, è costretto a vivere una vita tremenda perché deve perseguitare i debitori, capite? E lei cosa fa? Lei è gelosa. E già, perché oltre che essere brutta, è gelosa. E allora spia, legge le sue lettere, e quando c'è una visita medica sta con l'orecchio alla parete se c'è una donna, perché immagina che possa succedere qualcosa. La gelosia, non so se qualcuno di voi l'ha sperimentato sulla sua persona, ma siete ancora talmente giovani che avrete tempo di soffrire abbondantemente per questo. La gelosia è una cosa spaventevole. Conoscevo una coppia in cui lui conosceva la mia densissima vita, una coppia in cui lui era un ardente omosessuale, quindi non aveva mai toccato la moglie, quindi la moglie ci rimaneva male, giustamente, dico un po', giustamente, almeno un buffet, no, però era geloso della moglie e si metteva sotto la macchina per vedere quando lei stava in macchina con qualcuno, la spiava, le faceva le poste, capite? La gelosia, qualcuno l'aveva definita in un modo meraviglioso, che vivendo con piccolo compenso, eventualmente se poi potete lasciarlo qui in una ciotolina che vi rimpingua lo stipendio mensile, e il... Che cos'era? La gelosia è stata definita in questo modo. La gelosia è stata definita in un po' di suspense, non fa male. La gelosia è stata definita in questo modo: è un cane che ti morde il fegato. È un cane che ti morde il fegato. Vita triste, ma poi quando la carceriera, la padrona, si lagna, allora qui la sua moglietà, per così dire, esplode. Una moglie, le mogli si lagnano. Fa parte, dice Roberto naturalmente, fa parte della natura femminile. E si lagna per tutto, perché se vieni, vai via da dove sta lei a letto, allora la trascuri. Ma se tu torni è perché la vuoi vedere morire. Si lagnava del rumore dei passi, si lagnava della solitudine e voleva la cioccolata, questa è una cosa meravigliosa, cioè sapete, in assenza di sesso, perché insomma ho molti dubbi che in quelle condizioni ci potesse essere qualche festosità sessuale, massimamente le donne ricorrono a dei succedanei. I succedanei di un matrimonio sono tanti. C'è chi fuma, c'è chi, diciamo, fuma. Lo dico con una certa esitazione, e sto guardandoci, ma lo dico con una certa esitazione perché siete fanciulline inesperte e non sapete nulla ancora dell'esistenza. C'è chi va in bagno a masturbarsi. Forse non avrei dovuto dirlo, ma tant'è, o nel letto stesso, nel talamo coniugale, perché meglio chi fa da sé va per tre, insomma c'è tutta una vecchia teoria sull'argomento, degli elementi, degli ersatz, diciamo in tedesco, uno dei succedanei sono i dolci. Se voi vedete una giovane donna che mangia molti dolci, vuol dire che con il marito va poco bene. Ma poco bene. Io conoscevo una signora di cui avrei detto che le cose andavano in un certo modo, moglie di un celebre giornalista, eravamo amici, ma questa prendeva troppi dolci, e io avevo qua sulla punta della lingua, in certe nostre così incontri serali a casa sua, ottima, impeccabile cuoca, volevo dire, ma perché mangi tanti dolci? Io sapevo perché mangiava tanti dolci. E sospettavo qualche tradimento, qualche freddezza artica del marito, e quindi lei si rimpinzava di bignole, bignole. E la cioccolata, naturalmente, che cos'è? È la droga delle droghe, è la droga concessa, insomma, no? C'era una ragazza, mi ricordo, mia allieva, che manteneva per suoi oscuri, oscuri propositi di astinenza sessuale. Bellissima era questa, ricordata nel tempo. Anche il professor Bevilacqua, lo conoscete il professor Bevilacqua, la ricorda con il ciglio commosso, umido, quando pensiamo a questa ragazza qua, che però aveva delle sue oscure astensioni da piacere della carne, e tutto questo era diventato clamorosamente vero e conclamato. Ma la notte andava in cucina, quell'argomento di cui stiamo parlando, e c'erano dei barattoli che aveva, maxi barattoli di Nutella, non conoscete la Nutella? E lei affondava la faccia nel barattolo di Nutella, no? Il che significava che ne usciva fuori con 3000 calorie in più, quindi naturalmente i fianchi sconvolti poi da una precoce cellulite, una cosa terribile, ma in questo modo sopravviveva. E qui la cioccolata, che cosa serve? La cioccolata è il succedaneo, che lei voleva la cioccolata. E poi a un certo punto c'è questa frase: allora, chi apprezza quello che mi sto per dire può dedicarsi alla letteratura, seppure provvisoriamente. Io mi auguro che qualcuno fra voi abbia autentica attitudine. Chi non capisce quello che vi sto per dire può andare alle capannelle. Perché vi parlo delle capannelle? Perché alle capannelle c'è l'ippo. E quindi occuparsi di ippica. Qual è la frase che vi sto per dire? Rientra il marito la sera e lei, attenzione, sottolineatela, e lei tira fuori da sotto la lenzuola, tra l'altro, questo fatto che fosse già a letto, capite? Non era mica necessario, già a letto, è una squisitezza dello scrittore per farci capire il suo stato valetudinario. Questa era una donna che stava a letto, si era sposato con una malatina, perché poteva anche non stare a letto, no? Che cosa tira fuori? Ecco le tre parole fondamentali: le sue lunghe braccia magre. L'arte è esattamente questo. Che cosa chiediamo, cosa un uomo chiede a una donna? Che ella non sia un ragno. Chi acconsentirebbe ad avere un rapporto sessuale con un ragno? E voi sentite che le lunghe braccia magre hanno qualcosa nella loro tentacolarità di pochissimo, naturalmente, il lecebrico. Andate poi a vedere il lecebrico, che cosa vuol dire. Di pochissimo il lecebrico vuol dire affascinante. Leopardi diceva. Leopardi è inventato da me il lecebrico, ma il lecebrico non è inventato da me. Leopardi diceva, Leopardi Giacomo diceva, una donna a 30 anni, quindi una donna ai suoi tempi, ha infinite più illecebre di una donna di 15. Quindi queste braccia magre ti fanno, sono poco sessuali, francamente. Ma poi, se voi mettete insieme gli aggettivi lunghe e magre, l'immagine di qualcosa di ripugnante, di ragnesco, diciamo così, viene in mente, e lo abbraccia. Voi non so se avete mai riflettuto su questo tema dell'affettività, su questo tema, su questa esplicazione dell'affettività, che sono gli abbracci. Perché con i baci, vedete, la situazione è più chiara. Oggi i ragazzi, maschi e femmine, si baciano tutti. Mi sono già espresso sull'argomento con un notevole schifo: pa, pa, pa, pa, pa, pa, baci come sberle, baci come sputi, insomma. Vabbè, lasciamo perdere. Il bacio è una cosa importante, preziosa. Ma sull'abbraccio sulla braccia, lì vengono i guai. Non tutte le braccia sono fatte per abbracciare, e questo potete scriverlo EG a capo del letto. Non tutte le braccia sono fatte per abbracciare. Quando siamo abbracciati da braccia femminili, con quella polpa floscia che gli anni hanno costruito sotto gli avambracci, quella inutile polpa floscia, no? In cui però si è mantenuto un antico vigore, per così dire, che sopperisce il vigore medesimo, naturalmente, che sopperisce all'assoluta inappetibilità delle braccia stesse. Ma chi è che parla con me al secondo piano? Cosa stavo parlando? Delle braccia. Naturalmente ci si sente profondamente sconfortati e si vorrebbe morire. E lei, siccome baciare non se ne parla, siccome si vede che il marito si intuisce, qui è l'arte dello scrittore, deve essere poco intenzionato nei suoi confronti, gli chiede due cose. La prima, un po' di sciroppo. Le medicine allora erano scarse, come sapete, no? Clisteri, sanguisughe, lo sapete, sciroppi per la tosse e un po' più d'amore. È terribile mettere insieme l'amore con lo sciroppo. Cioè l'amore viene percepito da Madame Dubuc, tipico nome normanno per incidence, viene percepito come una medicina che serva al fisico, come una medicina che serva per l'appunto, per la tosse. E notate come mette le cose, prima parla dello sciroppo, cioè la cosa che può chiedere di più è lo sciroppo, perché lo sciroppo è lì, in circolazione. Poi subordinatamente chiede l'amore. Ma guardate che non chiede l'amore, se voi leggete con attenzione, chiede un po' più di amore, perché sa che l'amore tu cur non può chiederlo, chiede semplicemente un pochino più d'amore. L'amore viene in questo modo paragonato allo sciroppo, viene orrendamente svalutato, ma è il massimo che Madame Dubuc possa chiedere. Abbiamo cominciato in ritardo, quindi consentitemi ancora, con tutti questi tempi sballati, non questa volta per mia colpa, quantomeno di iniziare l'altro argomento. Siamo in un romanzo. In un romanzo capitano delle cose. È un po' diverso che in una vita. In una vita Charles poteva rimanere sposato a Madame Dubuc senza che succedesse nulla. Ma in un romanzo non si può dire non succede nulla, devi far succedere qualcosa. E una notte succede qualcosa. Vengono a chiamare Charles per un'operazione. Il povero Charles non è abilitato a fare operazioni se non con un medico vicino, a meno che non si tratti di cose semplicissime. Ma pare che quell'operazione sia una frattura di gamba, e quindi una frattura di gamba lui, con i ricordi di medicina che ha, dovrebbe sapersela cavare. E qui nel cuore della notte si deve decidere cosa fare. Le strade non erano come ora, anche se lì siamo in campagna, erano pericolose. E allora si decide di mandare lo staliere avanti, e poi 3 ore dopo, cioè sul far dell'alba, sarebbe andato Charles sul cavallo 3 ore dopo, e lo staliere avrebbe, per così dire, aperto la strada per rendersi conto se c'erano degli ostacoli di qualunque sorta. Sarebbe anche andato in tempo per avvertire che aprissero i cancelli della fattoria dove era avvenuto l'incidente. E quindi alle 11 di sera avviene questa chiamata per il dottore, che per la prima volta è costretto a mostrare le sue capacità su una questione seria, comunque, che è una frattura, una gamba. E alle 4 del mattino Charles parte. E volevo lasciarvi con queste impressioni, che vorrei che vi accompagnassero nel weekend. Insomma, è notte, ma è il finire della notte. Fa un freddo dell'anima. È inverno, siamo a gennaio. E allora voi dovete immaginarvi cosa può essere una notte. Abbiamo avuto del freddo recente qui a Roma, quanto ne volevamo nella prima decade di febbraio. Freddo, notte, campagna, l'alba che spunta, Charles che sta andando incontro